edizione. I have to feel that this president has been a failure. The other day I understand that Chris Christie said that he was E allora cominciamo questa edizione di prima edizione questo lunedì 19 dicembre con polemiche che però sono tutte americane, anche se stanno facendo il giro del mondo. Nelle prossime ore infatti il presidente degli Stati Uniti Barack Obama partirà per le vacanze di fine anno, andrà alle Hawaii, ma sulla stampa americana è bufera perché le vacanze dureranno 17 giorni, troppi secondo i suoi avversari. Quello che sentite è Mitt Romney, candidato alla nomination repubblicana per le presidenziali del 2012. E allora lo sentite, se la prende proprio con Obama. E questo è il tema infatti che ha dominato gli show americani del fine settimana. Questa è un'intervista alla Fox. In realtà Obama non è ancora partito, ma lo sono la First Lady e le due figlie. E allora però la stampa americana sta già facendo i conti. Da Washington alle Hawaii andate e ritorno con volo dell'aeronautica militare, poi il soggiorno, insomma, il costo totale di 17 giorni di vacanza per Obama costerà ai contribuenti americani $4,135,038. Insomma, la polemica impazza, questo negli Stati Uniti, non solo polemiche da noi, tra poco le altre notizie di prima edizione con la rassegna stampa. Prima edizione. 6:17, ancora buona giornata da Anna Migliorati, siamo pronti con i quotidiani in edicola per cominciare a dare un primo sguardo alle prime pagine dei quotidiani, come sempre poi alle 7:20 anche le pagine interne con la rassegna stampa curata da Alessandro Milan. Nel frattempo diciamo subito che i temi che dominano le prime pagine di questa mattina sono essenzialmente tre: la manovra ancora naturalmente, la visita di Benedetto XVI a Re Bibbia e l'addio al rivoluzionario tranquillo, come lo definisce la Repubblica, Václav Havel, presidente ceco post-comunista. E di questa mattina invece ne parleremo più avanti, già vi dicevo, la morte di un altro leader, il leader della Corea, Kim Jong-il, ma questo è tutto un altro scenario. Nel frattempo dicevamo dei quotidiani, allora la Repubblica, apertura, fisco, la caccia agli evasori, senza attività finanziarie 15 milioni di italiani, il via ai controlli. Si parla ancora di manovre con Tremonti che dice arriveranno nuove tasse, la replica del governo è falso. Insomma, ancora temi legati alla manovra ad aprire, a fianco l'addio a Václav Havel, come vi dicevo, definito dalla Repubblica rivoluzionario tranquillo. A centro pagina l'immagine del Papa tra i detenuti di Re Bibbia, sovraffollamento, doppia pena, così la Repubblica, che segnala, da cui vi segnalo però anche un'altra notizia: scuola concorso per 300.000, servono professori giovani, tornano i concorsi a scuola dopo 13 anni, concorsi per maestri delle elementari, per professori di medie e superiori. Il ministro dell'istruzione Francesco Profumo sta per mettere le mani anche su questo tabù della moderna pubblica funzione, il reclutamento di nuovi insegnanti, così rivela la Repubblica. Il Messaggero, no a un'altra manovra, torna Tremonti, attacca, presto nuovi interventi, la replica del ministro dello sviluppo, appunto, no un'altra manovra. E poi centropagina, anche qui Re Bibbia, appello del Papa, e anche qui addio Havel, eroe della libertà, muore a Praga il leader della rivoluzione di velluto, il Messaggero. La Stampa, altro tema legato sempre alla manovra su cui viene in qualche modo posta l'attenzione: sanità, ticket su misura. In questo caso il ministro della salute Balduzzi che parla sulla Stampa: dovranno essere proporzionati a redditi e famiglie. E ancora, anche qui manovra, fondo di Tremonti, ne servirà un'altra, e Passera che dice non è vero. Anche qui l'addio ad Havel, e anche qui l'immagine del Papa tra i detenuti. E poi il Sole 24 Ore, anche qui si parla naturalmente di manovra, altro focus, altro tema diverso, pescato sempre in questo argomento: tasse locali, corsa ai rincari, così scrive in questo caso il Sole 24 Ore. Aumenti in arrivo da Roma a Milano, l'IRPEF regionale sale per tutti dello 0,33%, addizionale, imposte immobiliare, tariffe, trasporti urbani, ultimi giorni per i bilanci, così scrive il Sole 24 Ore, con la protesta richiesta dei comuni. La sorpresa dei comuni: non siamo esattori dello Stato. Così sul Sole 24 Ore del lunedì. Io vi ricordo anche i poster del Sole 24 Ore che stanno uscendo via via in questi giorni. Quello di oggi dedicato all'IMU, pronta all'esordio tra prima casa, aliquote e nuove rendite. Il Corriere della Sera, anche qui un tema legato alle situazioni di questi giorni, alle manovre, si faranno o non si faranno, ma con un'intervista che apre la prima pagina questa mattina del Corriere della Sera. La CGIL rompe con il governo. Camusso, tratti autoritari, Fornero aggredisce i lavoratori. Questa è la svolta. La prima pagina del Corriere della Sera questa mattina dà la notizia e lo dà con un'intervista. La trovate a pagina 3, come vi dicevo, poi magari la leggeremo in maniera più approfondita con Alessandro Milan alle 7:20, ma già ve l'anticipo perché sarà un po' questo il tema di giornata, in una giornata in cui ricordiamo, tra l'altro, va in scena un altro sciopero, quello del pubblico impiego. Camusso, sulle pensioni un intervento folle, governo supponente, dice la Camusso in questa intervista al Corriere della Sera, stupisce una simile aggressione da una donna e si riferisce alla Fornero. La situazione è grave, ma quella di Monti non è la ricetta giusta. Io sono per continuare con la mobilitazione, valuteremo cosa fare con CISL e UIL, dice ancora la Camusso. Vedo che gli esponenti dell'esecutivo si autoattribuiscono il ruolo di salvatori della patria, sono toni duri e di una polemica che sembra davvero essere solo all'inizio. Parla di lavori, ve la potete immaginare, una sala operatoria con infermieri che hanno 70 anni, dice ancora la Camusso, e poi parla anche di contratti. Il contratto unico sarebbe solo un nuovo apartheid a danno dei giovani. Insomma, dalle pensioni al lavoro, la Camusso attacca dalle pagine del Corriere della Sera, e questa sarebbe davvero la svolta, perché per quanto fino ad ora ci siano state polemiche, una Camusso così dura fino a questo momento non c'era stata. Ed oggi, dicevamo, andrà in scena la seconda tranche degli scioperi, vale a dire quelli del pubblico impiego. Questa, dicevamo, l'apertura del Corriere della Sera. Altre notizie dal Corriere della Sera invece vengono dal sostegno al contrario al governo Monti. Alfano e Terzo Polo: sosterremo Monti perché è assurdo votare ora il Premier, il 2012 sarà buono e sereno. Così sempre dal Corriere della Sera, dove ci sono anche, oltre, dicevamo, le notizie riportate anche dagli altri, la morte di Havel e poi il Papa Re Bibbia, altre due segnalazioni. L'immagine centrale dedicata a New York, in tonaca con i manifestanti anti Wall Street, il vescovo sulle barricate, finisce agli arresti. Tra i manifestanti di Wall Street c'è anche un vescovo in pensione, la storia raccontata dal Corriere. E poi la brutale concorrenza con Apple, parla il capo di Google Schmidt, la gerarchia nazista uccide la creatività. Così sul Corriere della Sera. Parlavamo di Havel, vi facciamo sentire anche, come sempre, lasciando a questo punto le pagine dei quotidiani, anche un'intervista che invece abbiamo raccolto noi, perché politico, drammaturgo, attivista dei diritti umani, artefice della cosiddetta, dicevamo, rivoluzione di velluto dell'89, Havel era diventato presidente della Repubblica Ceca dopo la separazione dalla Slovacchia, ma è stato un personaggio molto particolare. Bene, Paolo Panceri ha sentito Alessandro Catalano, docente di lingua e letteratura ceca e slovacchia all'Università di Padova. Havel è stato, da questo punto di vista, assolutamente decisivo, perché era l'unica figura che era in grado di tenere in qualche modo unite le varie file del dissenso. L'aveva dimostrato nei dieci anni precedenti, e negli ultimi due anni prima della caduta del muro di Berlino era ormai considerato da ampi gruppi l'unica persona a cui potevano rifarsi i gruppi degli ex comunisti riformati del 68, così come tutte le altre anime. Io ricordo di essere stato a Praga all'inizio degli anni 90, non ho mai visto, se non forse nella Turchia di Atatürk, una tale presenza dei ritratti di Havel ovunque, proprio perché era considerato unanimemente il simbolo di quella generazione di passaggio. Ricordiamo anche una cosa che magari si tende a dimenticare: ricordiamo che Havel è stato eletto presidente della Repubblica Cecoslovacca dall'ex Parlamento comunista, cioè il Partito Comunista comunista aveva ancora sostanzialmente il 100% dei deputati, cioè nonostante è stato eletto Presidente della Repubblica Havel. Penso che più un simbolo più chiaro di questo sarebbe difficile trovarlo della sua figura proprio decisiva nel momento di passaggio. Così l'intervista di Paolo Panceri. Una segnalazione velocemente anche dalla stampa estera questa mattina, dal Financial Times, perché riporta anche qui un'intervista importante. Il titolo dell'articolo è Mario Draghi, il compito di salvare l'euro. Un'intervista, una lunga intervista al presidente della BCE, l'italiano Mario Draghi, questa mattina sul Financial Times. La sostanza dell'articolo è che Draghi dice che la crescita economica mondiale sta decelerando, l'incertezza aumentata, è necessario ripristinare la disciplina fiscale nell'area euro e accelerare l'attuazione del fondo salva stati. Così dice Draghi, definisce tra l'altro triste l'attrito tra la Gran Bretagna e l'Europa e dice ancora se anche qualche paese uscisse dall'euro e svalutasse la propria moneta sarebbe solo un sollievo temporaneo. Una lunga intervista questa mattina sul Financial Times di Mario Draghi. Un altro approfondimento di prima edizione, alternando così come sempre giornali e altri temi, andiamo a parlare di una vicenda che ha fatto molto discutere nel fine settimana ed è la scelta del comune di Casale Monferrato che a due mesi della sentenza nel processo Eternit ha deciso di accettare 18 milioni di euro e revocare la costituzione di parte civile. 1800 i morti dal 1974 ad oggi a causa di tumori. E allora Katia Caramelli ha sentito il coordinatore dell'associazione vittime, Bruno Pesce. Siamo due mesi da una sentenza di quello che è il processo più importante anche sul panorama internazionale circa le morti sul lavoro e morti ambientali, cioè ci sono anche centinaia di morti di cittadini che non hanno mai lavorato dentro lo stabilimento Eterni ma che hanno subito un gravissimo inquinamento ambientale. La città simbolo della lotta internazionale contro l'amianto in questi anni è Casale, è diventata Casale, perché c'è una lotta che è in corso da oltre 30 anni per la giustizia, per la bonifica, per la sanità, intesa in particolare per la ricerca. Quindi a due mesi dalla sentenza si sfila, si ritira il comune, diciamo così, l'ente locale, il comune più importante in questa battaglia oltre che in questo processo, in cambio di soldi, tra l'altro soldi che sono anche, insomma, rappresentano una somma sicuramente piuttosto importante, nessuno lo nega, ma ritirarsi da questo processo e dai futuri processi, perché futuri processi? Perché tutti gli anni abbiamo ancora circa 50 mesotelioma, trascuriamo, ci sono ancora alcune morti anche per asbestosi e tumore al polmone d'amianto, ma abbiamo ahimè ancora da raggiungere, dobbiamo ancora raggiungere il cosiddetto picco, cioè il dato più alto dopodiché si comincia a diminuire. Noi purtroppo in questi anni siamo ancora sostanzialmente in ascesa, quindi ci saranno nuovi processi e il comune di Casale non potrà più costituirsi parte civile. Il comune fa un discorso meramente economico e invece come si fa a dire, tradurre questa situazione, questa tragedia, questa strage così immane, profonda, estesa, sono migliaia di vittime, il processo, dentro questo processo la procura aveva individuato quasi 3.000 persone tra morti e ammalati, il 70% sono di Casale. Come viene avvertita questa situazione dalla gente? Invece, tra l'altro, c'è il dubbio che chiaramente questa mossa poi vada ad influenzare l'esito, no? Per la sentenza di primo grado, che è imminente, è tardiva, io quindi non so neanche come sia gestita questa situazione, cioè è strano, ecco. È strano che la facciano in modo così tardivo che non dovrebbe teoricamente incidere sulla sentenza di primo grado, però lo stesso avvocato del comune, lo stesso sindaco comunque ci hanno confermato che per i prossimi procedimenti potrebbe contribuire a concedere delle attenuanti all'imputato Stefan Smidaini. Non lo so quanti morti bisogna avere per essere considerati una città che ha subito una strage, una città offesa, ferita profondamente? Quanti morti in più bisogna avere per far prevalere il dato della salvaguardia della salute e della vita rispetto ai soldi? Quanti devono morire proprio tutti gli abitanti di Casale? Prima edizione. E ci aspetta Daniele Biacchessi, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. E il 19 dicembre vi parla Daniele Biacchessi. Oggi parliamo della strage di Viareggio, dei rapporti tra familiari delle vittime e istituzioni. Valentina Furlanetto. Mancavano giusto 3 milioni di euro. Ora, grazie ai soldi dei morti, siamo all'assestamento di bilancio. Accade a Viareggio, dove il 6 dicembre, a maggioranza risicata, è passata una delibera del comune che ripiana il buco di bilancio con i fondi che arrivano dal risarcimento per l'incidente del 29 giugno di 2 anni fa, che distrusse la vita di 32 famiglie, 32 vittime, donne, uomini, bambini, molti ustionati più o meno gravi, figli rimasti senza madri, fratelli rimasti senza sorelle, come Andrea Maccioni. Io penso, mia sorella di 39 anni e i miei due nipoti, di Lorenzo di 2 anni e Luca di 5 anni. Quindi diciamo, abbiamo avuto una famiglia sterminata. Per 2 anni e mezzo queste persone, familiari delle vittime, hanno lottato fianco a fianco al sindaco e alla giunta comunale, uniti nella volontà di pretendere giustizia e quindi di arrivare a un processo. Ma negli ultimi tempi pare che sia venuto alla luce un buco di bilancio nei conti del comune. Che fare? Il comune ha stretto un accordo con le assicurazioni per il risarcimento della strage, che vale 2 milioni e 800 mila euro. Non è assolutamente possibile che il comune di Viareggio, che rappresenta tutti i cittadini di Viareggio, tratti con le assicurazioni il risarcimento dei danni patrimoniali, perché noi fin dall'inizio, dopo la strage di Viareggio, siamo stati contattati dalle assicurazioni per uscire come parte civile e noi, nonostante le nostre difficoltà, abbiamo sempre detto di no, proprio per arrivare alla fine del processo e vedere un minimo di giustizia. E invece vediamo che il Comune di Viareggio tratta e anzi trova l'accordo, e la cosa strana proprio nel momento dell'assestamento di bilancio, perché se non ci fosse stata questa strage, il comune di Viareggio, di questi 3 milioni di euro, dove l'avrebbe presi? Quindi grazie alla morte di 32 vittime, la giunta Lunardini risorge. Per me non è veramente ammissibile, è una vergogna. Io l'ho detto proprio in tutte le lingue, è una vergogna. Il documento contabile è passato a maggioranza risicata, 16 sì, 15 no. La cittadinanza è insorta, le associazioni dei familiari hanno chiesto le dimissioni del sindaco Luca Lunardini. Capisco benissimo, perché l'ho vissuta anch'io con un senso di imbarazzo e di disagio, che questo da alcuni è stato vissuto come soldi che provengono alla città, vengono utilizzati semplicemente nei conti della città. Però io ho già una mozione della maggioranza che impegna a riversare questi denari nel bilancio di previsione, a riversarli sempre su via Ponchielli. Avete ascoltato il reportage di Valentina Furlanetto sui familiari delle vittime della strage di Viareggio. La prima edizione di Italia in controluce, torniamo oggi puntuali, 13.30, Radio 24. E grazie a Daniele Biacchessi. Prima edizione, le 6.39 minuti. Voltiamo ancora pagina. È arrivato l'inverno, è arrivato il freddo anche nelle grandi città. In alcune città è già emergenza. Italia sotto zero, a Roma c'è stato già una vittima tra i senza tetto, perché la temperatura durante la notte, per la prima volta dall'inizio di questo autunno, di questo inverno, è fredda. C'è anche questo da gestire nelle grandi città. Allora andiamo questa mattina alle 6.39 minuti alla Croce Rossa di Milano. Alberto Bruno, buongiorno. Buongiorno a voi. In quanti hanno dormito questa notte già nelle vostre tende, nei vostri alloggi? Vabbè, allora bisogna distinguere i dormitori. Noi non gestiamo dormitori, noi gestiamo servizi di strada. Il Comune di Milano ha rinforzato i propri dormitori per i senza dimora, portando un implemento dei numeri disponibili poi esiste sempre una grossa aliquota di persone che invece permane per strada e che è anche refrattaria all'offerta dei posti nei dormitori anche quando vi sono posti. Perché c'è anche il problema di convincerli a non stare al freddo. È arrivato il freddo, avete cominciato ad avere più persone che vengono a chiedervi aiuto in queste notti? Perché noi, ricordiamolo, voi lavorate in queste notti per dare aiuto. Sì, noi lavoriamo tutto l'anno da 11 anni sulla strada per questo tipo di attività. Sono aumentate le persone che si stanno riversando in strada. È un effetto ovvio in un periodo di crisi come questo, collettivo. Ce lo attendavamo e i numeri non sono ancora rilevanti perché poi gli effetti delle crisi hanno sempre un ritardo, fortunatamente, per l'arrivo in strada. Il freddo arriva quest'anno fortunatamente un po' più tardi, ma vi aspettate l'emergenza nelle prossime settimane? Noi stiamo lavorando tutti per uscire dalla logica d'emergenza, almeno a Milano. I servizi sono, come detto, attivi 365 giorni all'anno. L'inverno è una stagione naturale, può capitare l'inverno più forte in cui si può parlare di emergenza. Purtroppo per anni le amministrazioni hanno parlato di emergenza perché si muoveva all'ultimo minuto, cioè evento è venuto. L'inverno è prevedibile e noi stiamo cercando di lavorare su un piano freddo, che è una cosa diversa di un'emergenza, preparandoci anche a momenti di picchi di temperature più basse. I picchi di presenze per quanto riguarda le persone in strada non avvengono di botto, cioè è difficile che si passi da 300-400 persone in strada conosciute a 600-700. È molto più da lavorare sul proprio fenomeno di chi si sta quasi per finire in strada, cioè sulle povertà in casa, ma questi sono un lavoro che devono fare i servizi sociali comunali, bisogna farlo anche attraverso la solidarietà dei cittadini, il cosiddetto servizio di sentinella, che è un servizio naturale di mutua solidarietà, perché è da lì che poi si passa in strada, dal momento in cui non si hanno più elementi di sostentamento, non si ha più una capacità a gestirsi una povertà, anche perché noi viviamo da una società ricca e abituata e anche viziata, e quindi in questo il lavoro grosso è quello di prevenire l'arrivo in strada e quindi poi adattarsi per farli uscire dalla strada. E quindi naturalmente è un lavoro che continuo, però intanto di notte succede anche questo, e anche questo vi raccontiamo a Prima Edizione. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro Alberto Bruno della Croce Rossa di Milano. Grazie a voi. Anche queste tante storie di quel che accade di notte, quel che vi raccontiamo ogni mattina nelle prime ore a Prima Edizione. Voltiamo pagina, perché cosa succederà, cosa ci attende nella giornata di oggi? Ci attende che ci saranno molti disagi per chi porta i figli a scuola, per chi ha bisogno di fare un certificato ad esempio all'anagrafe, per chi oggi avrà bisogno di andare in posta. Perché? Perché è di nuovo sciopero questa volta del pubblico impiego nella giornata in cui, torniamo ancora a guardare il Corriere della Sera, la CGIL rompe con il governo. La Camusso ha rilasciato una durissima intervista al Corriere della Sera in cui definisce il governo Monti un governo con tratti autoritari, e della Fornero dice aggredisce i lavoratori e sono, dice la Camusso, per continuare la mobilitazione. Sarà così, è tutto da vedere. Nel frattempo oggi però, dicevamo, sarà un'altra giornata di sciopero. Allora, istruzioni per l'uso alle 6:44 minuti per chi inizia questa giornata, e ci aiuta Cristina Carpinelli. Cristina, oggi che succede? Sì, innanzitutto è uno sciopero, come dicevi Anna, indetto dalla CGIL ma anche dalla CISL e dalla UIL, quindi i numeri saranno sicuramente alti, i numeri dell'adesione. Si fermeranno per 8 ore sanità, uffici pubblici, poste, energia. È una giornata di possibili disagi negli ospedali per l'adesione di medici e infermieri a questo sciopero nazionale unitario del pubblico impiego. Avranno orari e modalità diverse da città a città, ad esempio le scuole sciopereranno un'ora al termine delle lezioni, l'università tutto il giorno. Ci saranno anche delle manifestazioni in tutta Italia, mentre a Roma si svolgerà un presidio davanti a Montecitorio. La cosa che interessa forse di più i cittadini è quello che vi dicevo, lo sciopero di medici e infermieri. Sono a rischio che cosa? Soprattutto le visite specialistiche, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici non urgenti, mentre saranno garantite ovviamente le attività di pronto soccorso soccorso 118 e tutti gli interventi urgenti. A scioperare, dicono infermieri e medici, si va contro una manovra economica giudicata penalizzante e iniqua, e saranno in totale circa 20.000 infermieri della sanità pubblica. Per ora è tutto. E grazie a Cristina Carpinelli. Istruzione per l'uso, dunque, oggi ci attende un'altra giornata di scioperi. Prima edizione. 6:47 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati. La notizia che questa mattina, in queste prime ore di questo lunedì 19 dicembre, sta tenendo banco. Arriva dall'Asia e ha messo in allerta paesi come Stati Uniti e Giappone. Perché? Perché il leader nordcoreano è morto. La Corea del Sud ha decretato lo stato di massima allerta già delle sue forze armate. Cerchiamo però di capirne di più con Adriana Fracchia. 우리의 전체 당원들과 인민군 장병들과 인민 Così alle 12 locali, le 4 in Italia, tra le lacrime un anchor woman della TV nordcoreana vestita di scuro ha dato l'annuncio in lacrime della scomparsa del dittatore nordcoreano Kim Jong-il, come dicevi tu Anna, e saluto tutti gli ascoltatori. Kim Jong-il è morto sabato durante un viaggio in treno alle 8:30 del mattino, ma la notizia è stata data solo oggi e era sfiancato dalla stanchezza fisica, ha detto ancora l'annunciatrice. E oggi Pyongyang è una città paralizzata dallo shock per questa notizia. Il dittatore scomparso, che qui sentite, avete sentito in un discorso durante una parata militare, aveva 69 anni, 70 secondo i registri sovietici, ed era stato colpito già nell'agosto scorso, nell'agosto del 2008, da un ictus, e pur tra molteplici voci sul suo stato di salute sembrava essersi ripreso, preparando il passaggio dei poteri al terzogenito Kim Jong-un. Ha governato la Corea del Nord dal 94, dopo essere succeduto al padre Kim Il-sung, che governò appunto dal 48 fino alla sua morte avvenuta nel 94 a causa di un attacco di cuore. Kim Jong-il è stato presidente della Commissione di Difesa Nazionale e segretario del Partito del Lavoro di Corea, comandante del quarto esercito più grande del mondo per numero di truppe. Viene salutato in Corea del Nord come il caro leader o il grande leader della patria. Il suo compleanno è una festività pubblica. Ha sfidato la comunità internazionale per costruire l'atomica in un paese in cui la popolazione muore di fame, e i suoi funerali si terranno a Pyongyang senza la partecipazione di delegazioni straniere il 28 dicembre prossimo. Come dicevamo, il figlio Kim Jong-un è stato designato a suo successore. L'agenzia di stampa del regime ha invitato tutti i membri del Partito dei Lavoratori, militari e la popolazione a seguire fedelmente l'autorità del compagno Kim Jong-un. Così, di padre in figlio, quella nordcoreana si conferma come una dinastia. Come annunciavi tu, Anna, la Corea del Sud, formalmente ancora in guerra con quella del Nord, ha decretato lo stato di massima allerta delle sue forze armate a seguito di questo annuncio, e la Blue House, la presidenza sudcoreana, convocato d'urgenza un consiglio di sicurezza nazionale. Riunione d'emergenza anche da parte del governo giapponese, e anche gli Stati Uniti stanno a guardare. La Casa Bianca dice: noi rimaniamo impegnati alla stabilità della penisola coreana e alla libertà e sicurezza dei nostri alleati. Ed è tutto per il momento. Grazie Adriana Fracchia. Naturalmente nelle prossime ore si attendono altre prese di posizione, di sicuro alla Corea ci sarà oggi da guardare. Questo è il primo quadro delle notizie della giornata, come sempre facciamo con Prima Edizione. Noi ci risentiamo però tra pochissimo già con GR24 e con le altre notizie. Viola Bottoni, Peter Bescapè in regia, da Anna Migliorati. Allora buona giornata, ci risentiamo tra poco.